A bordo campo di Dario Ricci. Venticinque giorni, 2 ore, 46 minuti e 10 secondi a una velocità media di 6,10 nodi. Beh, l'avete capito da quest'ultimo dettaglio. Parliamo oggi di vela, di grandi sfide negli oceani e di grandi sfide estreme in generale in questa puntata di A Bordo Campo. Partiamo proprio dal mare perché quei 25 giorni, quelle 2 ore, quei 46 minuti e quei 10 secondi sono stati il tempo che ha permesso ad il nostro ospite di concludere una regata prestigiosissima con un riconoscimento altrettanto importante. Allora, ve lo presento subito, benvenuto a Bordo Campo e a Radio 24 ad Alberto Bona. Ciao, ciao a tutti. Allora, Alberto Bona, 27 anni, torinese, quinto. Ma ci spiegherà ora quanto vale quel quinto posto nell'ultima Transat, nell'ultima mini Transat regata dalle Canarie alla Guadalupe attraverso l'Oceano Atlantico. Beh, Alberto, perché chiariamo subito, un quinto posto che vale oro, come si dice, no? Beh, sì, per me è stata una grandissima soddisfazione, perché è stato un progetto che comunque richiede molto sforzo, un progetto che richiede una qualificazione, quindi sono 2 anni alla fine di lavoro per arrivare lì ed è stato un bel risultato. Abbiamo fatto una cosa che non era mai stata fatta prima, cioè di andare direttamente dall'Europa ai Caraibi con una barca così piccola, non era mai stato fatto, quindi eravamo 84 partecipanti e ne sono arrivati solo il 50% praticamente, perché sono ritirate tantissime barche, quindi diciamo che chi è arrivato dall'altra parte è stata una festa veramente anche con tutti, no? Eh sì, alla fine l'unico vincitore, ma anche il più fidato o infido compagno di viaggi è soprattutto il mare. L'Oceano Atlantico è difficile da domesticare, soprattutto da solo, come avete fatto voi. Purtroppo allora siamo partiti un mese in ritardo perché c'erano delle condizioni proibitive di meteorologicamente, e poi alla fine siamo partiti da un porto spagnolo, direzione diretta, rotta diretta quindi sui Caraibi, che non era mai stato fatto con una barca così piccola, 3700 miglia, che comunque in solitario sono tanti giorni di mare. Ti chiedo una curiosità da inesperto, quando si dorme? Perché per gestire la barca da solo così in una traversata del genere, come fate a riposare? Come facevi tu? Si dorme anche grazie al fatto che abbiamo un'adrenalina e uno molto cioè che ci aiuta, no, anche a dormire poco. Abbiamo la tensione dell'obiettivo, che comunque è una gara, quindi si rimane sempre molto attenti e vigili, quindi si dorme poco. Alla fine si cerca di dormire 4 ore sulle 24 almeno. Però fate dei piccoli pisolini, insomma, ve li dividete, sì, queste 4 ore? Non... Sì, certo, si cerca di fare micro sonni di massimo 20 minuti, sparpagliati un po' nelle 24 ore, e in quei momenti lì si lascia il pilota. Noi abbiamo dei buonissimi piloti automatici che riescono a portare la barca anche molto veloce, mentre riposiamo il minimo indispensabile. E senti, di solito voi navigatori solitari fate degli incontri straordinari in queste regate, in queste traversate. Ecco, hai visto più balene, orche o delfini? Guarda, io purtroppo uno dei miei terrori era proprio le balene, perché purtroppo è un incontro bellissimo, è affascinante. È uno di quei regali che ti può fare il mare, no? Ogni tanto, però deve fartelo anche a distanza, no? Questo regalo, perché se invece ci finisci sopra rischi di compromettere la barca, la regata, e quindi insomma era un po' la mia paura. Però ho incontrato vicino alle coste del Portogallo, ho incontrato una bella balena che mi è passata vicino, e lì è stato bello, ma anche un momento un po' forte. Beh, certo, anche perché poi fare il CID con una balena è un po' complicato, no? A livello assicurativo sì. Non si può contare su gran rimborsi. No, la comunicazione è quella che è. Senti, invece dal punto di vista tecnico, che imbarcazioni avete usato, che tipologia di scafi avete? Sì. La mia barca si chiama Online Sim, che è il nome dello sponsor che mi ha seguito che ha creduto in questa grandissima avventura, e sono delle barche di 6 metri e mezzo e larghe 3 metri, quindi sono diciamo dei derivoni, si può dire, cioè delle barche molto leggere, plananti, con una velatura abbastanza sproporzionata per la lunghezza della barca. Comunque facciamo delle medie per essere una barca così piccola, molto alte, e abbiamo un piccolo spazio sotto coperta per ripararci un po' dagli elementi quando insomma c'è veramente brutto tempo. Comunque abbiamo un piccolo spazio sotto coperta e dove teniamo appunto i viveri, l'acqua per sopravvivere comunque un mese in mare, e sono molto performanti, quindi bisogna anche sapere appunto mettere le giuste vele, cercare di fare un compromesso, no? Tra andare veloce ma Saperla riuscire anche a governarla, perché insomma, preservare altrimenti. E comunque è il mezzo che ci deve portare comunque infatti, dall'altra parte dell'Atlantico. qual è la difficoltà maggiore, ecco, nella taratura di queste risorse che ti offre la barca, e invece anche nella mediate con la necessità poi di fare una gara di endurance in qualche modo? Io in verità ho lavorato molto su di me, perché credo che sia molto importante prepararsi anche psicologicamente, e quindi ho fatto un gran lavoro proprio di, anche con tecniche un po', diciamo così, alternative di rilassamento, Ecco, di tipo, ad esempio. visualizzazione, diciamo di respirazione soprattutto, quindi cercare di mantenere sempre un equilibrio emotivo. Quello è molto importante, perché bisogna cercare di non avere sbalzi nel morale, cercare di, cioè quando una giornata è... Purtroppo cioè l'ambiente esterno è molto ostile, no? Quindi questo ti può causare dei salti di umore incredibili, no? Una giornata può essere bellissima col sole, senti che sei messo bene in classifica e ti sembra di essere in paradiso, no? Con il vento, le onde, che va tutto bene, invece poi magari il giorno dopo è una giornataccia, c'è burrasca, fa freddo, sei bagnato. E quindi bisogna cercare di non buttarsi giù nei momenti difficili, e neanche però bilanciarsi troppo quando si sta bene. Quindi C'è sì, il veramente tempo, importante. Alberto, per qualche passatempo, nel senso che ne so, uno si porta il Kindle per leggere qualcosa o qualche libro? Ma io tendenzialmente, guarda, era la mia prima navigazione così lunga in solitario, e l'ho presa, diciamo, molto sul serio, nel senso che avevo un obiettivo. La cosa bella, secondo me, di questa esperienza qua, una delle cose belle, è che veramente si entra in una dimensione un po' diversa, no? In cui appunto anche il tempo acquista un'altra dimensione, e non si sente il bisogno di fare altro se non quello di essere, diciamo, in sintonia un po' con l'ambiente, col mare, col vento, e quindi di fare con un obiettivo, no? Che è quello di portare bene la barca, arrivare prima degli altri. Quindi diciamo l'obiettivo che, cioè, tutto viene fatto un po' con l'obiettivo di andare veloce, di far camminare bene la barca. Quindi non è che poi c'è tanto tempo peraltro, e quello secondo me è anche un vantaggio, no? Cioè bisogna anche riuscire a concentrarsi su un obiettivo per così tanti giorni. Non è facile, però quella è anche un po' la sfida, no? E senti, dal punto di vista fisico, come ti sei preparato? Come abitualmente ti prepari a sfide di questo tipo? Non mi dire andando a nuotare, eh? No, diciamo che beh, poi ognuno si deve anche sentire un po' cosa il suo fisico, cosa richiede. Perché comunque gli sforzi fisici effettivamente non sono così, le barche sono piccole, gli sforzi fisici non sono così grandi, però c'è bisogno di avere una grande resistenza. Quindi io, per esempio, avendo anche un po' una passione per la montagna, andavo molto a camminare su montagna per farmi insomma la resistenza, il fiato, queste cose qui, e poi a correre normalmente. Ma poi appunto io ho lavorato molto su anche esercizi di respirazione, quindi di controllo un po' gestione un po' diciamo dello stato emotivo, no? Quindi con respirazione, visualizzazione, tutte queste tecniche qua, che Certo, una roba ormai del genere, sono sono fondamentali. diventate un po' il pane quotidiano di non solo di voi sportivi estremi, ma degli sportivi tout court. Alimentazione, andare avanti con queste bustine liofilizzate. Io penso che appena hai messo piede dalle parti sempre delle langhe, insomma, un po' di carne cruda e cose del genere, te ne sarà Sì, venuta voglia, no? avevo un po' di regali di amici che sono venuti a portare. Sono le cose che poi aiutano anche un po' il morale, no? Quando c'è qualcosa di buono da mangiare. Però diciamo che la maggior parte sono cibi disidratati, quindi polverina, questo aggiunge l'acqua, e per fare una dieta anche equilibrata, no? Per avere le vitamine, comunque cercare di mantenere un livello di accettabile di calorie e vitamine. quindi molte cose sono appunto disidratati, barrette, frutta secca, queste cose qua. Beh, Alberto, intanto grazie per averci portato a bordo della onlinesim.it, la tua imbarcazione, per aver rivissuto qui a bordo campo la tua mini Transat. D'obbligo la domanda sui prossimi obiettivi, le prossime regate, su cosa ti stai preparando? Sto cercando di fare un po' un passo in un'altra classe, in una classe più grande, che sono sempre regate oceaniche, però con una barca un po' più grande. Sto cercando di tornare in oceano il prima possibile perché, cioè, ho voglia di navigare, mi ha un po' segnato questa esperienza perché anche a livello sportivo agonistico dà delle grandi soddisfazioni, quindi spero di tornare presto in oceano a fare un'altra traversata e spero che se non è quest'anno sarà il prossimo anno. Spero. E allora Alberto Bona, un grande in bocca al lupo per coronare questo obiettivo. Le balene ti aspettano, qualunque sia l'oceano che sceglierai di solcare. Intanto grazie di essere stato nostro ospite qui a Radio 24 e a bordo campo. A presto, ciao. A bordo campo. Pakistan, Nanga Parbat, 8125 metri. Ebbene, lo sapete, amici di A Bordo Campo, stiamo seguendo con grande attenzione, grande partecipazione la sfida, la doppia sfida tutta italiana dei due amici di A Bordo Campo e di Radio 24, due grandi alpinisti che stanno tentando un'impresa estrema, la conquista, che sarebbe la prima invernale del Nanga Parbat, uno degli 8000 della Terra, ancora inviolato, l'unico ancora inviolato insieme al K2 proprio in questo inverno, il tentativo di conquista proprio in questo inverno. E allora torniamo ai campi base dove si trovano Daniele Nardi e Simone Moro, questi i due grandi alpinisti italiani che in modo diverso, con filosofie diciamo anche diverse, con strategie soprattutto diverse, stanno dando l'assalto alla vetta di quella che viene chiamata la montagna assassina, la montagna mangia uomini. Andiamo subito al campo base del Nanga Parbat sul versante di Amir, quello ai piedi del famigerato sperone Mammeri, dove troviamo il nostro Daniele Nardi. Allora, Daniele, ben ritrovato, dici subito come stai al campo base del versante di Amir, da dove sei arrivato da pochi giorni. So benissimo, come siamo arrivati c'è stato subito qualche giornata di bel tempo che mi ha permesso di andare verso i 4.000 e poi i 5.000 metri, ho provato i nuovi sci che vanno alla grande, quindi grande contentezza. Questi giorni il tempo è un po' cambiato, c'è un po' di neve in giro e aspettiamo che arrivi la prossima finestra per andare ancora più su. Ecco Daniele, come procede l'acclimatazione all'altitudine? Molto bene, un po' come avevo dichiarato, diciamo che sto salendo non verso le pendici del Nanga Parbat, verso lo Sperone Mammeri, ma più che altro verso il Granalo Peak, che è questa cima di 6.800 metri, che è, diciamo, sul lato destro orografico di questa grande valle di Amir. Una montagna molto bella, sicuramente è un pochettino più facile da scalare e comunque mi permette più agevolmente di fare un'acclimatazione senza prendere troppi rischi, visto che il ghiacciaio di Amir, diciamo, da solo tra l'altro crea questi problemi, no? Di passaggio di crepacci da soli senza corde, è un po' pericoloso. Quindi faccio l'acclimatazione in maniera un po' più semplice per poi aspettare la gran bella finestra e tentare il Nanga Parbat sullo Sperone Mammeri. Sappiamo che tenterai l'assalto alla vetta in solitario, ma con chi sei al campo base? Hai qualche amico che ti tiene compagnia? Sono solo, ma in realtà ho sei ragazzi pakistani qui con me, tre dell'agenzia, compreso Ali, il mio caro amico, il cuoco, l'aiuto cuoco, e poi anche però tre poliziotti rimandati dal governo per garantire quella sicurezza, diciamo che dopo l'incidente, la strage dello scorso agosto, diciamo, ci hanno garantito come spedizioni. È un po' particolare come cosa, si sente la loro presenza simpatica, ma allo stesso tempo molto governativa e molto di sicurezza, quindi è una spedizione un po' particolare da prendere con le pinze. E allora grazie a Daniele Nardi dal campo base del Nanga Parbat sul versante di Amir. Ci spostiamo sull'altro versante, il Rupal, dove si trova Simone Moro e che sta per dare l'assalto proprio in queste ore alla vetta, al suo primo tentativo. Ben trovato, Simone. Allora, quali sono soprattutto le condizioni meteo? Allora, siamo in una fase abbastanza prolungata di brutto tempo, che tra l'altro ci era stata annunciata e prevista il giorno che noi siamo arrivati a Campo 3, abbiamo dormito e il giorno successivo siamo andati un po' più in alto e siamo scesi. Quindi nevica ed è un qualcosa che anche in Italia conoscete bene, però grazie a Dio non sta nevicando così copiosamente, ne sta lasciando poca di neve, 20-30 centimetri al momento, poi sembra che venga una finestra del tempo di 3-4 giorni. Quale potrebbe essere il momento buono per tentare l'assalto alla montagna? Sembra che il giorno migliore sia lunedì, ossia non solo che corrisponda a una giornata di bel tempo, ma anche e soprattutto che ci sia poco vento in vetta. Mentre sto parlando ci sono 150 km orari di vento sulla vetta, e quindi anche se ci fosse bellissimo, cioè cielo azzurro, sarebbe ovviamente improponibile anche provarci. Quindi noi stiamo pensando, se le condizioni meteorologiche venissero confermate, quindi in questo lunedì di calma di vento e una nuvolosità stratificata, che quindi magari permetterebbe anche che non facesse così freddo, di provare a fare un primo tentativo alla vetta. E poi quando arriva la finestra di bel tempo, noi siamo già parecchio alti sulla montagna, e sfruttare queste giornate di bel tempo non per muoversi dal campo base, ma per provare a fare un tentativo alla vetta. Quindi, Simone, siamo nei giorni decisivi. Più adrenalina del tentativo della sfida o diciamo anche il timore reverenziale nei confronti di questa montagna finora inviolata in inverno? Ma al momento il sentimento che sto provando è quello di calma, perché dovendo aspettare così tanto non voglio neanche farmi offuscare la lucidità dalla voglia di muovermi, quindi io me ne sto tranquillo, mi godo ancora la mattinata qui, mangiamo qui e poi partiamo per andare sulla montagna. Ci vuole più calma che adrenalina, perché in alta quota l'adrenalina brucia energie, quindi conviene essere lucidi, visto che energie ce ne serviranno tante. Quanto pensi che durerà il tentativo? C'è da dire che questo tentativo alla vetta potrebbe apparire quasi prematuro, perché noi abbiamo fatto una notte a 6.800 metri. In teoria, se fossi qui d'estate e sapessi come le finestre del tempo non sono così rare, farei ancora un giro per andare un po' più in alto a dormire, magari a 7.300-7.400, scenderei e poi ritenterei. Però le mie tre invernali riuscite sono proprio nate da una strategia simile a quella che ho raccontato, e con una notte sola passata addirittura una volta anche più basso rispetto a quello che abbiamo fatto adesso, e poi siamo andati in cima al Makalu, che è 8.000 e quasi 8.500, quindi è ancora più alto del Nanga Parbat. Il tentativo così alla vetta dovrebbe durare 5 giorni, quindi è parecchio, perché bisogna andare e bisogna anche tornare. E 5 giorni continui di bel tempo non ci sono mai d'inverno, ecco perché parlavo di partire con il brutto per i primi 2 giorni, quindi la durata sarà 5 giorni, 5 o addirittura 6 giorni per andata e ritorno, quindi non sarà un bel match. Clima al campo base, so che tra l'altro in questi giorni ti sei anche dedicato alla scrittura, no? Con i tuoi compagni d'avventura. Sì, anche è vero che la fotografia di esultanza che ho pubblicato tra l'altro sui social network, sul mio sito, è stata per alcuni confusa come un'esultanza, perché eravamo andati in cima, soprattutto per chi ci segue di straniero, perché esordivo con una parolaccia che si può dire, che era porca puzzola. Allora la gente vedeva che esultavo, vedeva questa esclamazione che Google non traduceva, allora tutti mi hanno chiesto se eravamo andati in cima, invece no. Ho finito di scrivere il mio quinto libro, l'ho scritto in questi giorni di attesa, in una ventina di giorni, circa 200 cartelle, è un libro che parla non solo di alpinismo, anzi è un libro che parla della mia carriera di pilota di elicottero e di ciò che voglio fare in Nepal e sto facendo in Nepal. E quindi l'esultanza era solo, chiamiamolo così, dal punto di vista editoriale, dell'opera che ho appena finito di scrivere. Adesso invece ne arriva un'altra molto più muscolare, quella del Nanga Parbat. Spero di essere ugualmente fortunato e capace. Beh, insomma, intanto almeno questo silenzio e anche questo riposo forzato del campo base del versante Rupal è stato utile per completare quest'altra fatica letteraria, no Simone? Scherziamoci un po'. Sì, sicuramente, sicuramente. A metà aprile edito da Rizzoli, sarà nelle librerie, quindi uno può vedere come scrivo in un ambiente abbastanza duretto, dai, definiamolo così, come quello del Manga Palma. Chissà quanti scrittori invidiano quel riposo e quella valle silenziosa. Beh, Simone, ti porto anche l'imbocca al lupo di Daniele Nardi, che intanto è accampato all'altro campo base sul versante di Amir, ha trovato utilissima anche la tua casetta che avevi lasciato su quel versante. Sì, infatti quello è un bivacco che ho costruito, una donazione per i pastori nel periodo estivo, perché dormivano veramente sdraiati per terra, e sta venendo utile anche d'inverno, perché soprattutto quando la direzione spinge dal versante di Amir, anche le tende di campo base vanno distrutte, quindi sono ben contento che lo posso utilizzare anche lui, anche perché comunque lì è ancora così lontano dalla parete che perlomeno poterla guardare da un'edificazione un po' più solida di una tenda almeno lo fa stare tranquillo. E allora Simone Moro, grazie intanto per questa cronaca dal campo base del Nanga Parbat versante Rupal, e che dire, in bocca al lupo per questa sfida estrema che vi aspetta ormai fra poche ore. Grazie mille, grazie. Anche per questa puntata di A Bordo Campo è tutto, un grazie a Pietro Lacorte in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci attraverso il nostro sito web www.radio24.it e attraverso il podcast, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend, A Bordo Campo torna domenica prossima come sempre alle 16.30 e ogni sabato mattina in replica alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.